è stato visto! Per cercare bandolate allo zero pieno, un'altra puntata in giro a rumbi di palla di Cristiane. Allora, mi mandano sempre all'ospedale, ma io voglio sapere l'autore che mi scriva sui testi, io lo saccio dove si trova a Rossale e si va come me la dice di vigna cap a Mario Scarpelle, tanto gitto tutorial Mario Scarpelle. Comunque sono qui sempre in compagnia di Maria Francesca mia, che ti fate una fa ciao a tutti. Senta cazzo, ma quando cazzo mi paghi? E me la compri le scarpe dei liquidoni, 400 euro. Ti sei perso pure la voce per ti dire. Ah, e vieni con me a casa, signore. Oh, svetton per le mano, che te faccio ora io. E cazzo sei male, sei proprio una zicca. Oh, madonna, ma che ti faccio. Ecco, abbiamo visto le ricapezze di Maria Francesca. E allora passiamo a questo mammifero che ha un saccio più come definirlo. Per Francesco, per Francesco. Ciao a tutti, ma a me ve la viene la mamma, mamma, ciao mamma, saluta Fratma, squit squit! Sì, per Francesco, chi ne... squit! Dopo, chi sei frate, chi è chi? No, è uno che è venuto a Rumucciono, va va. Dopo, chi mi cambia oggi questa bella giornata di sole? Allora, ti canto una canzone, c'è in bella pioggia, ma te fa crollo il mondo su poitia, vedi quando c'è un tamparata? C'era un tamburello che ha di Chanel. Chanel ancora. Io no, più frangere. Io no, più frangere. Io no, più frangere. Ma che vado piano. Caro amici, ma io sapevo che non caputi a te. Ah, lo cantante. Comunque, cerchiamo le parole sotto il tetto di questa bellissima chiesa. Vediamo questa bellissima chiesa. Cadete, cadete, cadete, cadete, cadete, cadete. Aspetta, tira, una rosa ruggia piti, ma sciupette, avessi un campo bello. Bellissimo. Comunque, stavo dicendo, giocavamo le parole su tasso tutti, si abbella la chiesa, vediamo che c'è pure gente, c'è pure folla. Tutti questi di vivo qua. Zio Pia, visto che bella fece la vegna, visto, c'è una spostella. Sì, sì, è buona per l'ultimo viaggio. Comunque, interveniamo, intervistiamo un po' di gente qua, vediamo se bella nonnetta. Andare! Figlio, e che te devo dire? Oggi è un giorno triste. E chi te, nonne? Sì che Pier Francesco ha fatto piova, e però non esageriamo. È morto fidanzato mio. E ora, vedete, cari amici, facciamo anche televisione, guardate! La miseria! Con i sentimenti della gente! Quando andavi a sono morto un braccio santo? 98! E il morto mentre facevo l'amore! Ecco, Valeria, morti più bello, non ti preoccupare, te, che non sta beato! Sì, sta beato! Ma c'è così il manco dentro la bala! E non è rimasto accettato! Vabbè, voi capite, noi scendiamo in particolare, intervistiamo suo prepete, che ha fatto una bella pratica. Prepete Pietro! Salve, chi è il pomeriggio 5? Giove no? No, veramente permette signora, però per notte, grande artista calabrese. Ah, capisci che rumore ti fa, che gira più cosente se paese paese, così, ta gente ti ha allignato. Sì, sì, sì. Ma volevo fare un bello programma di religione. Oi, pe, ma scusa, ma a me nella televisione c'è né movimento, cosa, capè? Caro Dom, come ti chiami? Dom Pape. E era mi sei Dom Pape, allora ti faccio trovare Francesco, vestito di suore per Francesco da Crecchetto. Vabbò, vabbò. Vabbò, io te lascio un numero che poi non organizziamo. Passa la sacrestia che non facciamo un bicchiere, eh. Sì, sì, capo, passo, va. Però malanza, è pure il funerale, ma ti portate. Vai, cata spia, tu. Sì, sì, cata spia. Sì, a me, capo. Sì, a me, capo.